Nicola Borzi, però questo risveglino che ha riportato l'Euribor all'1%, da che cosa è stato determinato? Insomma, che cosa dicono gli esperti? Ma insomma, le attese sono per tutta una serie di situazioni che potrebbero creare nei prossimi mesi delle difficoltà, sia sul fronte dell'andamento della crescita economica, che su molti paesi, a parte la Germania di cui abbiamo appena sentito, non convince. Ci sono timori sul fronte per altri versi dell'inflazione e c'è anche qualche grosso timore sulla situazione di importanti mercati immobiliari come quello statunitense, dove l'ondata dei pignoramenti per mutui che non riescono più a essere pagati, anche mutui non subprime, è in continua crescita e dove c'è qualcuno che teme un cosiddetto double dip, cioè un ritorno del mercato immobiliare e poi anche dell'economia più generale in una fase recessiva. C'è anche poi, tra l'altro, anche se questo è un aspetto che magari non interviene, non ha riflessi sul mercato interbancario, c'è un focolaio nel focolaio sulle modalità con cui le banche starebbero americane eseguendo questi pignoramenti. Forse c'è un altro scandalo nel retrobosco sul quale ancora non si sta indagando a sufficienza, e sono sicura che saremo pronti subito a raccontarvi. Speriamo che questo non avvenga, che anzi queste operazioni avvengano nella massima trasparenza, perché non ci piace l'immagine di famiglie che vengono sbattute fuori casa in maniera anche poco chiara.